Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eccoci qua, buonasera a tutti, buonasera da Maurizio Calzavara, buonasera da Michele Tosoni in regia. E oggi mercoledì, è il solito il giorno più importante per i live. Buonasera a One Man Pierre, che vengono tutti da Cittadella. Ci siamo presentati prima con l'anteprima con Roberto, ma ci ripresentiamo adesso. Il nostro bassista Davide, ciao. Chitarrista Charlie, chitarra. Enrico, batteria. E Pierre, chitarra e voce. Perfetto, One Man Pierre. Come hai creato One Man Band, Pierre, questa formazione? Dove hai avuto l'idea di formare questa band? Vabbè, allora all'inizio, come dice il nome, doveva essere una One Man Band. Quindi da solo praticamente. Invece adesso siamo in quattro. Comunque tutto è nato nell'estate del 2009, quando ho cominciato a buttare giù le prime idee a livello musicale e compositivo. E all'epoca le avevo fatte ascoltare a un ragazzo che poi comunque è quello che mi registra anche il fonico, praticamente il fonico, che è anche colui che mi registra appunto i dischi, e abbiamo cominciato a lavorare assieme a queste canzoni. All'inizio avevo fatto un piccolo EP con quattro pezzi che poi sono stati ripresi nel primo disco, dove c'era lui in veste di fonico e poi anche in veste di batterista, soprattutto nei primi all'inizio. Quindi era della cavalcata tra 2009 e 2010. Infatti il primo concerto è stato il 10 dicembre dell'anno scorso con lui e la batteria. La band come era formata? Eravamo io, chitarra e voce, lui batteria, e lui la batteria. Quindi in due sì, era un duo. E poi lui, fra progetti vari eccetera, ha lasciato il posto al nostro batterista, è qui davanti, e abbiamo continuato in duo. Poi in giugno Enrico mi ha fatto questa domanda: ma perché non aumentiamo le forze e prendiamo su un bassista? E ho detto: che bel basso. Prima abbiamo parlato del basso, che il nostro bassista è bellissimo, e poi chitarrista. Mi ha detto: conosco uno molto molto bravo. In verità poi non si è rivelato bravissimo. No, scherzo. Grazie. No. Siamo stati molto contenti, e da giugno è entrato Davide, e poi con le registrazioni del disco nuovo è entrato anche Charlie, che ha registrato il disco, e poi da un mese suona con i Del Vivo. Quindi anche la band vera e propria adesso, sì, è così. Poi per cause varie, tante volte ci muoviamo in duo, in trio, in quattro, a seconda delle esigenze del luogo, oppure delle esigenze di lavoro del nostro batterista. Per cui comunque sì, ogni serata è diversa, perché appunto può essere fatta in due, in tre, in quattro, a seconda. Dovrei sottolineare che tu hai un altro gruppo, come il bassista un altro gruppo, come il chitarrista un altro gruppo. Adesso loro due no. Lui anche ce l'ha. Ah, un esempio. Sì. Ma quindi tu, cioè, è un altro gruppo praticamente. Sì. Ho un altro gruppo dove faccio tutt'altro genere. Ma il punk che tu parlavi a microfono spento, cari ascoltatori, lui parlava di punk, perché fondamentalmente il disco, che ha un bel titolo, un titolo significativo, Storie di vite in affitto. Yes. Molto interessante. Anche come la copertina, c'è scritto affitto. Sì, è stata un cartellino. L'idea è tua della copertina? L'avevo immaginata io così. Poi ho la fortuna di avere un cugino che comunque ha studiato, anzi due cugini, grafica. Uno che ha studiato grafica, anch'io ho studiato grafica, ma lui si è specializzato anche all'università. E un altro cugino che ha studiato cinema, è quello che appunto mi ha registrato e filmato il video di Salutami Ancora, e con loro è nata l'idea di copertina. Quindi abbiamo parlato del punk a microfono spento, perché il nostro amico Pierre è punkettaro. Cioè non lo fa vedere nel disco, ma anche lo fa vedere, lo fa sentire secondo me. E perché ci sono tante esigenze, tanti momenti, cioè tanti stimoli, tante ispirazioni. Tu sei punkettaro, il nostro batterista è Tutto. Poi c'è quello che anche discotecaro, discotecaro. Il metallaro è il nostro chitarrista. Il bassista che cosa? È il funkettaro. Reggae, ecco, vedi, un po' di tutto. Però sì. Si sente e non si sente. È un progetto diverso, un progetto a parte, cioè, secondo me è anche una cosa positiva, perché comunque ognuno riesce a mettere del suo e a far sì che comunque questo progetto possa comunque rientrare anche nel suo gusto musicale. Certo. Mi pare siano sette pezzi, sette pezzi che includono anche Donova. Questo mi fa molto piacere, io ho una certa età, ragazzi, Donova è un mio mito possiamo dire, ma poi ne parleremo a tempo debito. Adesso facciamo una cosa che sempre facciamo qui in radio, qui a Rock Wave, ogni mercoledì, e non solo il mercoledì, tutti gli altri giorni che facciamo in live. Apriamo la finestra, la cosiddetta finestra, per far sentire il disco. Un primo pezzo abbiamo scelto da disco. Ti ricordi il titolo? Salutami ancora. Lo sentiamo e poi ne parliamo. I tuoi discorsi e il vino, l'anima irrequieta che va. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, abbiamo aperto alla grande con questo pezzo. Ci sono tre chiavi di lettura, una chiave di lettura punk che bene o male all'inizio è a tosto alla punk, Pier, cosa dici? Sì, assolutamente. Come inizio è punkettaro. Poi le cose sono leggermente modificate, leggermente allargate. C'è un po' di pop anche, tra virgolette, in questo pezzo. Battista dice di sì, sì. Sei d'accordo, Batterista? Bisogna fare delle canzoni un po' anche comunque orecchiabili. Sì, esattamente, un po' di ritornello tutti, ci deve diciamo. Essere. Poi c'è la chitarra lisergica endixiana tua. Vieni avanti al microfono. Sì, sì, sì, eccomi qua. Ecco, perché questo è solo lisergico o presunto tale? Non c'è proprio un motivo. Semplicemente quando sono stato invitato da Pierre in studio mi ha detto improvvisa. Ah, perfetto. Ha improvvisato, mi è venuto quello e via, tutti mi hanno stato detto, inserito ok, nel pezzo. Bellissimo. Ma poi ascolteremo ancora meglio i suoi assoli su un pezzo, un altro pezzo. Penso che sia il secondo in scaletta. E il nostro bassista cosa dice, visto che sei intervenuto anche te dopo? Cioè, il duo parte con Pierre e un'altra persona e poi siete arrivati voi. In che senso? No, che l'intervento del basso in questo pezzo, l'intervento del basso. No, beh, su questa canzone l'ho fatto. No, ma dici nel gruppo? No, parlo di questa canzone. Ok, no, cioè l'ho fatto la prima cosa che mi veniva di solito. Ma Pier vi ha dato un punto di riferimento? No, totale, cioè, libertà. Detto, sì, mi ha detto anche sui pezzi vecchi, anche se avevano già un giro di basso, mi ha detto fai come vuoi. Ah, perfetto. E di solito al primo colpo il giro che faccio mi viene spontaneo, mi viene, sì, mi viene spontaneo, anche perché sul primo disco il basso l'avevo registrato io non essendo bassista, al primo disco, quello precedente, sì, per cui chiaramente quando è entrato lui, che è un bassista di stazza, sì, veramente, che, quindi, che soprattutto è un bassista, è un bassista, e non un presunto tale, un presunto, allora, bassista, infatti, allora di sicuro ha fatto un lavoro migliore di quello che avevo fatto io. Non eri anche un presunto batterista nel disco? No, no, no, il batterista era stato appunto l'altro, era l'altro. Adesso, visto che abbiamo qua il batterista Enrico, questi stop and go che hai fatto nel pezzo iniziale che abbiamo sentito adesso, come mai vuoi proprio dare l'input giusto anche agli ascoltatori, dare una spinta ulteriore? Diciamo, sì, che comunque sono nati in fase di realizzazione della canzone, che comunque la canzone vengono scritte da Pierre. Ecco, come scrive Pierre le canzoni? Non so, per chitarra le scrivi Pierre? Sì, no, beh, allora parto, le scrivo io. Ad esempio quelle del disco qua, chiaramente le scrivevo da casa, a casa, solo in cameretta. E poi all'inizio, appunto, essendo che eravamo con Enrico, solo con Enrico, e poi successivamente con Davide, comunque le adattavamo io e Enrico, comunque in stanzetta, quindi provate, le avevamo provate io e lui, quindi erano nate un po' dalla mia idea di partenza e poi sviluppate assieme. Benissimo, poi sono state sviluppate in tutti e quattro grazie al bassista che ha dato una mano anche lui, e poi alla fine con l'arrivo del chitarrista che ha sconvolto i piani, oppure no? No, diciamo che mi è piaciuto all'inizio. Io addirittura volevo fare un disco molto soft, molto acustico. Poi invece lui ha detto no, in studio è metallaro, quindi è un po' difficile. Benissimo, 22:19, come sempre adesso dobbiamo suonare. Perfetto. Che cosa? Allora suoniamo Habitat, che è la terza traccia, appunto, di Storie di vita in affitto. Ok, perfetto. Tutto dal vivo, tutto in diretta, 22:19. Bene. Tutti pronti? Sì. Avrai bisogno di un tuo scarico, che ormai il freddo non lo sento più. Tu mi guardi e mi dici che sono spavaldo, ma il mio freddo sei tu. Adattarsi è difficile, adattarsi è impossibile. E la notte che scende lontana da qui lascia l'ultimo ballo per me. E tu come sempre fai finta di niente e mi lasci ballare con chissà chi. Adattarsi è difficile, adattarsi è impossibile. Con te che non sei il mio habitat, con te che non sei il mio habitat, con te che non sei nelle mie corde, e meno ti canto più divento forte. Con te ho imparato l'arte dell'incoscienza, che a ragionare troppo già ci pensi tu. Ciò che rende artista è la pazienza. Scorrono le aree, ma non cambi tu. Dai tempi più remoti, ai quotidiani terremoti, nei i miei vizi giornalieri, ai in ottambuli pensieri, questo andamento lento di non adattamento mai, na na na na na mai, na na na na na mai, na na na na na mai. Adattarsi è difficile, adattarsi è impossibile, con te che non sei il mio habitat, con te che non sei il mio habitat, con te che non sei nelle mie corde, e meno ti canto più divento forte. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua. È un po' cattivo Pier questo testo, non è insomma, un po' così, menavi fendenti con l'habitat. Sì, dai. Come mai hai avuto l'idea di fare questo pezzo? Dove è nata? Allora, l'idea? Di solito i pezzi non è che nascono da per forza come si dice, esperienze personali, o comunque non hanno riferimenti ben precisi. Ben precisi. Di solito parto con un'idea che la maggior parte delle volte non ha già la forma completa di tutto quello che poi il testo andrà. Di solito è un, come posso dire, neanche un'associazione di idee. Work in progress. Sì, butto giù una frase e poi lentamente si sviluppa. Quindi non c'è un vero e proprio discorso da fare. Ho capito. Questo è musicalmente come è nato questo pezzo? Qui chiaramente in versione acustica, con le vostre due chitarre, che due ottavano, c'era il basso e la batteria ridotta, che lo strumentino che usavi è l'ovetto. Sono shaker. Ah, shaker, ecco, perfetto. Cioè, chiaramente dal punto di vista del disco è ben più mosso, ben più corposo. Diciamo che comunque anche nel disco qui è... Cioè, leggermente sì. Sì, la maggior parte è fatto da chitarre, anzi la totalità è fatta da chitarre acustiche, diciamo appunto che sotto c'è una batteria che spinge un po' di più, e soprattutto le parti che adesso Charlie ha eseguito con l'acustica, la parte solista che Charlie ha eseguito con l'acustica nel disco sono fatte da fisarmonica, che è uno strumento che avevamo usato parecchio. Come mai parecchio. Abbia utilizzato la fisarmonica? Perché all'inizio tutto è partito da Salutami Ancora, che era il pezzo precedente. Dobbiamo dire che c'è un video di questo. Sì, c'è il video, appunto, tornando al discorso della copertina. E il video che è stato realizzato appunto da mio cugino che appunto fa il regista diciamo della situazione. Comunque sì, tutto è partito da quel pezzo là in cui c'era la parte iniziale, il giro iniziale da solista che apre il pezzo, scritto tra l'altro, ci tengo a precisarlo qua, in radio da Enrico. È giusto. Grazie. Bravo, bravo Enrico. Grazie. Ha scritto il pezzo. Ha scritto l'introduzione. No, il pezzo l'ho scritto io. Lui ci ha aggiunto quel riff. Il giro iniziale, diciamo. E abbiamo provato a eseguirlo in vari modi con vari strumenti e diciamo che anche la fisarmonica ci dava quel tocco che a noi piaceva. Infatti poi è stata utilizzata anche nell'introduzione scritta con Emanuele Bocci, oltretutto. E che parliamo di Emanuele, cioè, è venuto qua a suonare qualche settimana fa. Tu l'hai conosciuto per caso, mi dicevi? Sì, l'ho conosciuto tramite la rete, appunto. Avevo sentito anche l'intervista che aveva fatto lui qua, che l'aveva già accennato. Sì, avevi accennato di questo ragazzo di Cittadella che ha conosciuto. Che ci siamo conosciuti in rete. Poi io l'anno scorso l'ho visto, cioè sono andato a trovarlo per la prima volta quando ho suonato all'Imena Risonanza Unplugged. E lì comunque ci siamo conosciuti un po' meglio. Poi questa amicizia è sempre continuata fra telefonate, il messaggio. Ci sentivamo appunto per Facebook, su MySpace. E poi io gli ho buttato l'idea di aiutarmi a scrivere, soprattutto, diciamo, questo che è la parte principale forse che sviluppa appunto questa storia di Vita in Affitto. Ha scritto queste parole e le ha recitate appunto anche nell'introduzione al disco, e sono stato molto felice di collaborare con lui. E anzi, lo ringrazio ancora per essere venuto 2 mesi fa esatti, che è stata la data di presentazione, il 14 ottobre, a suonare con noi a Vallà. È stata veramente una bella esperienza. Una stupenda esperienza, direi. Dobbiamo dire una cosa, dobbiamo sottolineare che è molto bello lo scambio di intenti musicali. Adesso attendo che lui mi chiami a registrare qualcosa nel mondo suo. Capiterà sicuramente. No, anche con Cristiano che è venuto qua, sono venuti giù tutti e due, anche Francesco che è il sassofonista. Sì. E è stata veramente una bella esperienza, perché poi anche sopra il palco abbiamo fatto qualche piccola jam, lui ha suonato anche la fisarmonica appunto nei miei pezzi. Certo. È stata veramente una serata molto, molto bella. Non si direbbe che in One Piece ci fosse anche la fisarmonica, eppure c'è anche la fisarmonica. Eppure c'è. Quindi c'è un mondo molto, comunque un po' diverso, chiaramente. Siamo partiti da tante esperienze, da tanti punti. Io in alcuni momenti ho parlato anche di musica folk, tra virgolette. Beh, ma comunque ci sono anche vari gruppi, soprattutto che magari girano in questi ultimi anni, che ho avuto anche la fortuna di vedere. Ad esempio i Gogol Bordello, Gogol Bordello prodotti anche da Madonna. Ecco, che comunque allora appunto riescono a unire questo folk col punk, con gli strumenti. Esatto. Anche, vabbè, loro comunque lo fanno li usano perché appunto sono anche gitani, così. Certo. Però no, per carità, no, per paragonarmi, però appunto per comunque dire che può esserci un punto d'incontro, sì, certamente, tra queste, io, a me tra queste mi, cose. Mi ricordavo i Pogues, che hanno sempre amato il punk folk, facevano del folk, facevano del punk, quel leader incontrastato che era cioè, un po' strano, che gestiva la band, Shane McGough, lo gestiva in una certa maniera, la gestiva un po' male, perché sempre un certo livello, anche alcolico, però sì. Aveva un certo ascendente, e la band era una grande band, i Pogues. Poi sono andato via, hanno continuato la vita i Pogues, ma no, senza di lui, però è tutto diverso. Però la matrice punk folk è una matrice importante. Sì, senza dubbio. Poi appunto questo era un nome, diciamo, di punta. Poi certo, c'è sotto anche i Levelers, un altro gruppo straordinario che facevano in questo genere. Benissimo, 22:29, facciamo un altro pezzo da disco che traccia hai scelto, ti ricordi? È la numero 5 del disco, che dovrebbe essere appunto Mollo Tutto, e che appunto questa è la traccia diciamo più roccheggiante di tutto il disco. Quindi c'è lui, il nostro metallaro, lui si ha dato impone, l'impulso praticamente. Sì, e poi ci tengo a precisare che comunque qua sentirete anche una voce femminile, certo, nei cori di questa canzone, che ci tengo a dire che comunque sono stati fatti da Lucia, che è la fidanzata di Charlie. Salutiamo anche Lucia, allora. Okay. Ecco, che comunque anche dal vivo ogni tanto ci fa interviene e ci dà il piacere di averla sul palco. Ok, noi. Sentiamo il pezzo allora. Parcheggi vuoti dei motel, foglie di fico e crisi, la pace dei sensi non è con me. peso, anche il tempo ha un prezzo e non lo sapevo. Il cielo ci guarda e ride, la fortuna ci tocca e non si decide a farci da testimone ormai. In questo matrimonio l'onda del rock. Pier, vuoi ripetere il titolo del pezzo che abbiamo sentito? Mollo tutto. Mollo tutto. Musicalmente non molliamo per niente tutto, è un pezzo rock, un rock abbastanza energico, no, molto forte, però tu che provieni dal metal, cosa ci hai messo qua dentro? Pier diceva che ci hai messo parecchie cose interessanti. Diciamo che anche qua è nato tutto lì su due piedi. Charlie, chitarrista, sta parlando. Sì. E come sempre mi ha detto Pier, mi ha detto improvvisa, vedi un po' quello che ti viene fuori. Ho cominciato a registrare il primo solo, poi mi fa bello, dai, qua ce ne sarà un altro. Ho registrato il secondo, ho registrato il terzo e via. E via. Sì, diciamo che Charlie, appunto, quando è venuto in studio non aveva avuto nessuna dritta. Libertà. È stato bello anche così. Il bello della musica è anche l'improvvisazione, il cogliere il momento. Dimmi. Sì. Sì. Hai colto l'attimo, sì, e non hai mollato tutto lo studio. No, decisamente no. Hai colto l'attimo. Cioè, Pier ha detto una cosa giusta. Cioè, un disco che è nato dalle improvvisazioni, chiaramente improvvisazione tra virgolette, però non ci sono state delle imposizioni da parte di no. Assolutamente. Cioè, qualcuno hai detto io ho questa idea, come la possiamo svolgere, possiamo sviluppare, così è nata. Sì, è stato almeno per questo disco di sicuro, perché quello precedente, avendolo fatto in due persone, comunque livello di improvvisazione certamente, in studio tante cose nascono senza averle pensate prima, perché poi in studio comunque riesci a trovare soluzioni nuove, suoni nuovi, idee nuove che comunque ti vengono ascoltando e riascoltando i pezzi, perché qua ci starebbe questo, qua ci starebbe quello, si potrebbe andare avanti anni a aggiungere... Ti devo chiedere questo, è stata quasi sempre molla giusta la prima oppure ci sono state delle ripetizioni? No, ci sono state tante ripetizioni. Senza dubbio, comunque tante prove, poi chiaramente ne vengono scelte alcune e altre vengono accantonate, anche perché comunque sì, l'improvvisazione è sempre bella, però comunque bisogna avere un minimo di filo conduttore che... Ti porto dalla prima e va a finire all'ultima. E dal vivo quando siete in quattro, no? Quando siete in due, quando siete in tre, quando siete in quattro nella formazione effettiva, c'è improvvisazione? Andate oltre, andate, allargate il raggio d'azione rispetto ai sette pezzi del disco, oppure c'è vicinanza al disco stesso? No, no, c'è dal vivo, appunto, avendo un set variabile. Io parlo quando il set ufficiale. No, il set ufficiale comunque è un set semi-acustico, perché comunque le chitarre da elettriche dal vivo non ci sono, a parte qualche volta Charlie collega un overdrive alla... E per quelli che non sanno che cos'è l'overdrive, è un fantastico pedale da attaccare alla chitarra che distorce il suono. Bene, che dà un certo effetto, che dà un certo effetto abbastanza per me. Sì. E appunto a parte questo, comunque c'è differenza dal vivo. Poi le parti, ad esempio, di fisarmonica e tutte le parti solistiche vengono fatte dal Charlie con la chitarra, per cui già comunque quella è una differenza. Sì. Perché la fisarmonica, anche dal punto di vista per portare dal vivo, non è semplice, assolutamente. Non diciamo che è un peso, però ha un certo sviluppo armonico, quindi ha bisogno di un certo spazio. Anche perché probabilmente per riuscire a fare tutto quello che c'è nel disco dovremmo essere molti più di qua. Esattamente. Però nel disco ci sono tante cose, tanti suoni, tanti inserimenti, tante idee che nascono da tante vostre frequentazioni musicali. Quello. Sì, frequentazioni... Nel senso positivo del termine, mica negativo. Più che altro, secondo me, nascono un po' dai nostri gusti musicali, perché anche se il Charlie comunque arriva dal metal, ad esempio, un appassionato di blues, appunto Enrico ascolta di tutto e di più, lui, ad esempio, bassista. Davide ascolta un qualcosa che, ad esempio, per me, poi non so per loro due, ska, reggae, io sono un po' ignorante in materia, un po' lontano di quel mondo, un po' lontano, per cui comunque lui di sicuro magari riesce a portare qualcosa che noi non possediamo, riesce a portarlo all'interno. Ma Davide, cosa ti ha portato l'amore per lo ska reggae, il ritmo dentro la band? Il groove, più che altro, che il ha groove, la musica. Cioè, mi piace perché questo genere, diciamo che il basso lo fa un po' da padrone, diciamo, sì, è vero, quello che spicca più di tutti. Assolutamente sì. A me è sempre piaciuto suonare, anche perché di solito sono giri semplici, però che hanno una bella potenza, una guidano gli altri strumenti. Sì, anche perché la chitarra è sempre in levare, quindi un po' così, quindi il basso, diciamo che è un po' prepotente, diciamo. E Enrico, come prepotenza, cosa c'hai nella band praticamente? Siamo tutti democratici, chiaramente, qua. Sì. Però che cosa hai portato? Già conoscevi Pier prima, ma cosa hai portato nella band a 4 nel disco? Beh, guarda, io ho suonato di tutto, tutti i generi possibili, in tantissime band. Ho cominciato a 13 anni, 14, a suonare in sempre la batteria, band, sì, con gli amici, e quindi ho suonato dal rock al punk allo ska, e quindi un po' di tutto anch'io ho portato, diciamo. T'è servito sta roba? Sì, assolutamente, naturalmente. Benissimo. 22:40, un altro pezzo live, che cosa, Pier? Presentiamo Nel tempo che passa, che è la traccia invece che chiude l'album. Il disco. Okay. Anche questa nel disco è acustica. Certo, invece qua è è acustica anche qua, però fatta in maniera diversa, chiaramente, essendo una radio, essendo uno studio radiofonico. E mi fermo un po' a parlare con me. Il mio tempo l'ho già speso a cercare di non farmi portare più in là. E parlo con gli occhi dipinti di un verde che mai perché c'è un corvo che grida lontano, una civetta mi legge la mano, una lacrima mi solca la faccia nel tempo che passa. E più ti parlo e più mi parlo da solo, comunicare con te è sempre stato difficile a tratti, malato, ma ora di più. Perché c'è un corvo che grida lontano, una civetta mi legge la mano, una lacrima mi solca la faccia nel tempo che passa. Una lacrima mi solca la faccia nel tempo che passa. Una lacrima mi solca la faccia nel tempo che passa. E passerà il tempo e le stagioni, i popoli e le nazioni, la musica e le canzoni. Passerà la tua follia, passerà la mia malinconia, ma è la tua voce che provo, non passa nel tempo che passa. E ancora il corvo che grida lontano, una civetta mi legge la mano, e la lacrima che solca la faccia pian piano si ghiaccia. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Questa era l'ultima traccia nel disco, non è l'ultima traccia dal vivo, chiaramente avremo molte altre fino a mezzanotte. Sì, la versione live è chiaramente la versione acustica, anche questa, però un acustico un po' abbastanza corposo, secondo me. Ti hai messo quel tantino di punk che avevi, proprio sì, quell'impostazione, un po' aggredivi un po' il microfono. Un po' ruvido. Un po' ruvido, esattamente, decisamente un po' ruvido. Come mai, Pier? Perché era nel seme delle cose, nel giro delle cose. No, perché... O qua perché l'hai voluto far così? No, diciamo che comunque le canzoni tento sempre, mi riescono così, più che altro un po' ruvide, così, sì, un po' aggressive. Cioè, quando, ma comunque, non è una cosa negativa, è una cosa positiva, no, secondo me. Diciamo che comunque non il mio stile, il mio modo di farle, cioè mi vengono così spontanee, praticamente. Sì, questo possiamo chiamarla anche un pezzo cantautorale, tra virgolette, questo qua, però ha quell'andamento non veloce, potente, ecco, grintoso, possiamo dire grintoso, che dà una chiave di lettura leggermente diversa, ecco, sì, la penso così. Grintoso è una cosa giusta. Bene, e com'è nato musicalmente sto pezzo? Sempre per chitarra, sì, nella tua camera? Diciamo tutte le canzoni nascono così, non ci sono storie differenti nel modo di scriverle, nascono così, e poi le porto a contatto con gli altri membri della band e ricomincia. Certo, la... Dobbiamo sottolineare una cosa: gli ascoltatori non possono vedere, però Charlie, che è un musicista perfetto, continua a provare la chitarra, perché i musicisti live continuano a provare lo strumento, perché sia perfetto. Charlie, cosa dici? È così. Sì. Beh, è bello provare lo strumento, provare gli accordi dello strumento. No, in realtà mi sta dando un po' di noie, problemi. Sì, non sta accordata, quindi perché l'umidità anche quello, forse. Non lo Qualcosa. So, è particolarmente birichina. Capita. Io ricordo che un musicista è venuto qua mesi fa, che aveva uno strumento, era il contrabbasso. E il contrabbasso aveva delle particolarità. Ad ogni momento si scordava e allora doveva riaccordarlo sempre, perché era cioè l'umidità, non so, qualcosa, lo scordava e non aveva nessun accordatore, lui lo accordava a orecchio. E quindi capita. Tu bassista cosa dici? Può capitare, si deve scordare spesso, diciamo. La batteria si scorda mai, o no? No, anche la batteria no. Si scorda. Si scorda, sì. Si scorda. Ma Enrico non la accorda mai. Mentre Pier si scorda i giri delle canzoni. Ah, si scorda. Pier. Si scorda. Un gioco di parole fantastico. Ma capita che Pier si scorda anche il testo delle canzoni? Certo, sì, certo. Sì? È capitato molte volte. Sì. No, molte dai. Non no, qualcuna capita. E come riesci a perdonare sto cosa che non dimentichi? Che dimentichi? Poi come fai? Ride. Ad esempio, sabato sera abbiamo ripetuto una strofa due volte, però può capitare, magari pensi ai fatti tuoi mentre stai suonando. Io dico sempre che le canzoni le scrive lui, sono sue, quindi dovrebbe può anche permettersi di modificarle, qualche licenza poetica. Non senza dire niente a voi, però praticamente no, quello è bello. No, ma lo faccio apposta per vedere se sono preparato. Per dare grinta di più, per dare una certa partecipazione, non so se sono molto d'accordo lui su questa frase che hai detto, ma insomma può anche essere. 22:47, stiamo piacevolmente conversando con Man Pierre, parlare di questo disco che ha un titolo molto singolare, diciamo questo titolo che è molto interessante. Allora, storie di vita in affitto. Ma sono sempre le storie di vita in affitto, ce ne sono tante, Pierre, secondo te? Secondo me sì, e in vari modi, in vari sistemi si può intendere questa frase. Una cosa che mi piace pensare è che comunque ognuno, leggendo il titolo del disco e comunque ascoltando le canzoni, possa trovare la sua storia di vita in affitto, comunque la sua storia, e possa riconoscersi in qualche modo o comunque avere una propria chiave di lettura. Questo, secondo me, questa è una cosa che non so magari se nella maggior parte delle volte si realizza, però mi piace pensare questa cosa. Dal punto di vista temporale, questi pezzi sono tutti recenti oppure sono datati? Cioè, datati nel senso... Allora, ad esempio, A Porte Chiuse, che è la traccia numero 6 e che penso sia quella prossima, che ascolteremo dopo, esatto, è stata la seconda canzone che ho scritto. Poi le altre, diciamo, sì, sono tutte pressoché recenti. Hai qualcosa nel cassetto pronto? Cioè, lasciato là perché non andava bene, perché vi siete messi d'accordo, non suonava bene. Beh, no, magari ho qualcosa che loro ancora non hanno ascoltato, però adesso è presto per parlare. No, io pensavo che avessi delle cose già pronte, lasciate nel cassetto perché non ti piacevano. No, beh, ad esempio, A Porte Chiuse all'inizio, che appunto questo brano di cui io ho appena parlato, all'inizio non mi convinceva. Perché non ti convinceva? Perché ci sono le cose che comunque scrivi, e però poi alla fine non sei pienamente soddisfatto, e qualche tempo dopo invece poi magari ti piacciono, comunque le senti più vicine a quel momento. E un'altra cosa ti dovrei chiedere, questo i pezzi li provi nuovi dal vivo oppure no? Cioè praticamente A Porte Chiuse l'hai provato? A parte Habitat, che è stata la prima che abbiamo suonato live, e nel tempo che passa, che è quella che abbiamo appena suonato, questi pezzi li avevamo già portati live prima del disco. Cioè, tutti gli altri abbiamo aspettato il 14 ottobre per farli sentire live, quindi comunque quando erano già pronti e registrati. Non succede invece che certi pezzi che li provate dal vivo e poi li mettete sul disco? A parte questi due casi, no, non è mai successo, perché comunque anche per il primo disco, cioè la prima data, che è stata appunto il 10 dicembre dell'anno scorso, quando ho fatto il primo concerto sono uscito con col disco in mano, per cui comunque è sempre stato un percorso normale. Un percorso, sì, così. Ho capito. Mai successo così. Bene, 22:50, adesso siamo. Allora, facciamo sentire il pezzo che tu hai citato. Sì, che è la traccia numero 6 del disco, del nuovo disco, che si chiama Porte Chiuse. Ok. Ci gola la porta, la stanno chiudendo anche a me. Fuori fa freddo. Aspettarmi sulla soglia, la maniglia non gira più. bloccata dall'interno. La chiave del perdono che potrebbe riaprire una mano. Triste la gettata, gettata nel suo mare. Passato che bussa e a porte chiuse, silenzioso il mio profondo, nel silenzio tutto intorno, mi permette di capire. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, 22:55. Salutiamo il nostro direttore artistico Alberto Pisco, che ha voluto voi stasera. Lo salutiamo e lo ringraziamo. E lo ringrazio veramente. E salutiamo anche la Nicoletta, una nostra fan accanita. E parliamo di questo pezzo che è molto bello, molto un po' fuori dell'andamento dei sette pezzi. Enrico diceva un grande lento, un lentaccio. Un lentone. Un lentone. Un lentone. Come mai, Pier, questa idea di questo pezzo molto, molto avvolgente, possiamo dire così? Perché, allora, questo pezzo appunto a parte che è nato così lento, così magari più dolce rispetto anche se agli altri, in qualche momento è leggermente più non dico grintosa tra virgolette, possiamo ricitare quello che abbiamo parlato prima. Sì, comunque questo pezzo anche per perché comunque anche nel disco precedente c'è la canzone più dura, magari la canzone più lenta, e comunque ci sta anche nel complesso del disco questa sterzata, diciamo, rispetto agli altri sei momenti musicali. E poi sì, comunque qua a parte l'uso delle tastiere, sì. E c'è il violino, è fondamentale, violino, come mai questo violino? Allora, diciamo che comunque il ragazzo che mi registra i dischi, che si chiama Damiano, appunto, che è stato il primo batterista, e lo saluto se mi sta ascoltando. Lui ha un gruppo, hanno un duo chitarra acustica e violino, in cui reinterpretano pezzi moderni, comunque anche magari più datati, in chiave super acustica, super soft. E appunto abbiamo pensato di utilizzare il violino, essendo comunque qualcosa di particolare, e di metterlo all'interno di questo brano, oppure nel brano appunto di Donovan c'è l'uso del violino, certo, e del violoncello. E poi abbiamo chiamato, intanto il violinista, citiamo i personaggi, il violinista che ha suonato nel disco si chiama Francesco Fontana. E poi abbiamo, che lo saluto insieme a Damiano, e abbiamo chiamato anche questa violoncellista che è amica di Enrico, che hanno suonato assieme anche anni indietro, che si chiama Erika Scapì. E poi la Lucia, la fidanzata del Charlie, e il fratello di Enrico, che ha suonato le tastiere in questo pezzo, che si chiama Emanuele. E quindi un gruppo aperto, di senso. Sì, sì, abbiamo chiamato parecchie persone che hanno collaborato. Chiaramente Emanuele Bocci, certo, che mi ha prestato l'introduzione, prestato la voce, che l'ha scritta, più certo, che altro le parole sono sue, anche le ha recitate. Benissimo, adesso è l'ora, quasi l'ora, si sono 22:58, è l'ora dei cosiddetti i dischi da portare su un'isola deserta, che non è l'isola dei famosi, ma è l'isola di Rockaway, che è un'altra cosa. Da dove cominciamo il giro? Da Davide, direi. Dai, cominciamo da Davide. I tre dischi da portare su un'isola deserta. Regola ferrea di questo programma: non si può copiare. Ok. Vai, Davide. Allora, sicuramente porterei uno degli Acrolites, un gruppo reggae di Los Angeles. Come mai un gruppo reggae di Los Angeles e non di un'altra parte del mondo? No, perché è uno dei miei gruppi preferiti. Fanno questo funky reggae, diciamo. E diciamo che è un genere più o meno nuovo. Ho capito. Cioè, è un misto di tutto. E poi porterei uno dei NoFX, Punk in Rubble. Ah, quello è un gruppo molto interessante. Sì. NoFX, decisamente. E che disco di NoFX? Punk in Rubble. Ah, ok, ok. E poi uno di Charles Mingus. Ah, stai parlando di un musicista di un mito, praticamente. Esatto. Come mai lui? Perché diciamo uno dei miei idoli. L'ho sempre ascoltato da quando ho iniziato a suonare basso. E mi ha sempre un po' ispirato, diciamo. Ma il jazz ti ispira ancora? Cioè, non il jazz in sé, più che altro lui come persona, come musicista. Mi ha sempre ispirato molto. Ho capito. Benissimo, questi sono i tuoi dischi, ma con determinati riscontri, che sono anche i tuoi riscontri personali musicali, praticamente. Sì, cioè diciamo che il jazz lo ascoltavo più che altro da piccolo. E anche adesso lo ascolto comunque, Charles Mingus. Bene. E il punk tipo dei NoFX lo ascoltavo da quando avevo 14, fino ancora adesso qualche volta lo ascolto ancora. I NoFX più che altro mi piacciono molto. E il reggae lo senti sempre? Lo ascolto molto adesso. Esattamente. Andiamo a Charlie, il nostro chitarrista, entixiano, non so, adesso vediamo i gusti. Sì, in realtà io ho scelto, sono tre o quattro i dischi? Facciamo quattro per te, che sei un entixiano. Allora, in realtà non ho scelto niente di Hendrix. Perfetto. Ho scelto un chitarrista che adoro tantissimo, è Gary Moore. Purtroppo se n'è andato. Sì, purtroppo sì. Grandissimo. Qualsiasi dei suoi dischi nel periodo blues... Merita. Sì, meritano tantissimo. Seconda scelta, And There Comes the Sun di Elisa. Che come mai Elisa? Elisa la adoro. Mi piace tantissimo, l'ho vista una volta dal vivo. Com'è dal vivo? Brava. Fantastica. Gruppo spaventoso. atmosfere bellissime. Lei è molto brava a danzare sulle atmosfere, a caricare le atmosfere. Sì, esatto. Poi un disco dei Prodigy. Un altro gruppo The Fat of the Land. Guarda, scusami. The Fat of the Land. Come mai i Prodigy? Prodigy sì, anche loro. Successo anche dalle nostre parti. Sì, grazie alla produzione di Madonna all'inizio di carriera. Sì, come sì, a livello di produzione sono una cosa pazzesca. E mi affascina in sé il loro genere, questo drum and bass misto, cioè abbastanza acido. Enrico non è mica d'accordo, sei d'accordo? No, sì. Molto d'accordo. D'accordissimo. Bravissimo. I Prodigy allora quelli. Sì, e anche loro dal vivo visti una sola volta, anche loro purtroppo, strepitosi. Però pazzeschi, veramente. E poi per ultimo, ma non ultimo, penso il disco che più di tutti mi ha cambiato la vita, il primo disco dei Rage Against the Machine. Un altro gruppo tosto, veramente tosto. Sì, appunto, che si chiama Rage Against the Machine. Certo, quello è decisamente una musica, non dico una musica, è un disco e basta, è molto particolare. È la loro musica. Cioè, beh, uno dei migliori in quegli anni, sicuramente. Nostro Enrico, tocca a te adesso. Allora, dimmi, hai scritto tutto quanto con la nota della spesa. Non sono neanche riuscito a scriverne tre, ma dopo ti spiego perché. Dimmi allora. Beh, innanzitutto un disco che ho ascoltato, non dico da piccolo, dico da quindicenne, tantissimo, che ho consumato, che è Falso dei Pancreas. Come mai Pancreas non è il punk molto conosciuto in generale, il punk rock italiano. Il punk rock, sì, che è un genere che comunque mi piace ancora, nonostante sia passato del tempo. È forse il mio preferito tra tutti i dischi punk rock che giravano all'epoca. Sì, e quindi ok, Falso dei Pancreas. Vai per i Pancreas. E poi il gruppo che preferisco adesso, che mi piace più, sono i Baustelle. Bello, interessante. Amen, che è l'ultimo disco bellissimo. No, quello dopo ti è piaciuto meno? Quello dopo mi è piaciuto. Charlie dice che non va bene. Charlie, non mi vuole bene lo stesso. Certo. Come mai? Quello nuovo mi è piaciuto un po' meno. Era più da ascoltare quello nuovo. Sì, ma molto più. Lo stile è quello. Gli arrangiamenti un po'. Un po' diversi. Sì, io preferivo magari un po' più il rock che hanno fatto sul penultimo disco. Più istintivo, piuttosto che l'ultimo, che magari è un po' più ricercato. Più ricercato, esatto. Però a volte perde un po' di potenza. A me gli ha sdoganati completamente. A me sì, bellissimo, ha avuto un grande io successo. Io lo ascolto tutto dall'inizio alla fine, è un disco che comunque merita. E cosa ne pensi dei pezzi che scrivono per gli Irene Grandi? Anche qui ti dico la stessa verità. Se bruciasse la città, famoso pezzo che Pippo Baudo ha detto di no. Invece quando lei ha detto la prima frase a Sanremo che l'ho vista in TV, ho detto questo l'ha scritto Bianconi, che è il cantante di Baustelle. Ho detto sicuramente questo l'ha scritto Bianconi, perché lo stile è suo. Inconfondibile. Esattamente, è bravo a scrivere i pezzi, decisamente. E poi diciamo sul terzo disco Imbroglio, perché se potessi andare su un'isola deserta mi farei una raccolta, un CD con tutte le canzoni che mi piacciono di più, perché appunto io ascolto tantissimi generi che vanno dall'elettronica al rock. E quindi scegliere un disco è difficile, a me piace pescare una canzone di qua, una canzone di là, fare un misto, una raccolta. Come si usa adesso. Sì, esatto, che adesso è... Adesso c'è la tecnologia, esatto, si possono fare. Esatto, c'è la chiavetta USB, molto più... Una volta non c'era la chiavetta, c'erano i vinili, come diceva prima Pierre, microfono spento, c'è un grande ritorno dai vinili, suo papà ha una grande raccolta di progressi, beato lui. Esattamente. Quindi con la chiavetta praticamente hai tutti i generi. Esatto, sì. Farei così. Bene, Pier, tocca a te adesso. Io ne avrei tanti da portare, però dai, porterei Young Now Pleasure dei Joy Division. Ah, un altro gruppo, un altro disco. Non hanno fatto tanti dischi. No, Joy ne hanno fatti due, purtroppo. Esatto, ne hanno fatti due soli, però quello. Però Young Now Pleasure, ho avuto la fortuna di vedere Peter Hook l'anno scorso al New Age, è stata un'esperienza incredibile. Poi porterai Pink Moon di Nick Drake. Ecco, vedi, io sono molto contento e soddisfatto e ti ringrazio che hai scelto anche te Pink Moon di Nick Drake, perché molte band hanno scelto Nick Drake e io sono molto contento, perché Nick Drake è un personaggio straordinario, che molto sconosciuto all'epoca, ma finalmente è stato sdoganato e molti lo citano come un mito e un grande tutti e tre i dischi che ha fatto Nick Drake, secondo me meritano assolutamente, sono stupendi. Pink Moon più che altro perché secondo me rispecchia quello che veramente lui provava, essendo che è un disco super scarno, super freddo, certo. Mentre gli altri comunque sono arricchiti da tutta la sezione, sì, dei Fairport, sì, Convention. Esattamente. Quindi John Cale, Joe Boyd la produsse, quindi un produttore straordinario che ha inventato il folk inglese praticamente. E dobbiamo sottolineare che Pink Floyd è ritornato nelle classifiche un po' di anni fa, perché è stato, c'era la pubblicità della Volkswagen, un pezzo di Nick Drake, e diceva, ho letto su un giornale, che la Volkswagen, cioè la casa di automobilistica tedesca, ha avuto tantissime richieste di gente che diceva: ma chi è questo pezzo? E allora il disco è stato ristampato anche grazie a questo grande successo che ha avuto con lo spot pubblicitario della Volkswagen. Ed è un grande disco, soprattutto perché comunque suonando la chitarra acustica dà molti spunti, anche perché comunque Nick Drake era un chitarrista eccezionale. Ed è difficilissimo suonare Nick, sì, Drake, perché comunque le accordature molto particolari, appunto, esatto, con accordature incredibili, anche cambiava accordatura per ogni pezzo, si dice. Sì, probabilmente è quasi sicuramente vero. E poi comunque un qualsiasi disco di Rino Gaetano, perché Rino Gaetano è Enrico dice sempre così, sei d'accordo Enrico? Rino Gaetano è Rino Gaetano. Posso dirti una cosa? Prossima settimana viene una band. I figli unici che conosciamo, infatti li saluto. Salutiamo. E saluto Sebastiano che proprio oggi in Facebook mi ha scritto: guarda che stasera ti ascolto. Io dico in diretta: Sebastiano, ti ascolterò martedì prossimo. Martedì prossimo a ripetere questo percorso, a far sentire questi capolavori di Rino Gaetano, musicista che è stato stoccanato, se mi è consentita l'espressione, che ho ripetuto da poco, adesso lo conoscono tutti. E diciamo che comunque anche dal vivo noi eseguiamo qualche pezzo di Rino Gaetano, e anche diciamo l'aggettivo, il nome che mi permetto di aggiungere a Juan Menpierre, che è il cantabarista, certo, deriva da Rino Gaetano. Da Rino Gaetano praticamente, sì. Beh, lui è un musicista che all'epoca era conosciuto sì solo per Gianna, in mente ha fatto tante altre cose. Ha fatto canzoni veramente molto interessanti. E poi lentamente, con il tempo, finalmente ha trovato il successo, purtroppo postumo, però l'ha trovato. E poi l'ultimo disco, un qualsiasi disco di Vinicio Capossela. Ecco, che ha vinto parecchie cose. Ed è, tra l'altro, Vinicio Capossela, non so se lo sai, il nuovo disco, nuovo, postumo, di De André con la London Symphony Orchestra, c'è anche Vinicio Capossela, no, che canta un pezzo. Non lo so. Questa cosa che hanno fatto tecnologica, la voce di De André, la London Symphony Orchestra e Vinicio Capossela. Non so quanto sia bella questo gioco, questo giocare, però è un discorso molto serio, fatto dalla Fondazione De André, approvato da Dori Ghezzi, quindi con la London Symphony Orchestra. Bene, abbiamo sentito i dischi che la band di One Man Pierre ama, sente spesso e volentieri. Adesso sentiamo qualcosa dal vivo. Voi, certo, facciamo Lungo strade diverse, che è contenuta invece nel primo disco, che si chiamava Il folle, il cantabarista ed altre creature. E anche di questa canzone esiste un video in YouTube, un video comunque molto molto semplice, che però è anche, se vogliamo dire, un po' particolare, perché comunque la telecamera è fissa e succedono varie cose. Okay. E qui ci vuole un attimo di tempo, che mi metto anche l'armonica a bocca. Sì, sì, ti metti l'armonica a bocca, è tutto in diretta, tutto dal vivo. Stiamo ascoltando One Man Pierre, questa cavalcata fino alle 24, assolutamente tutto in diretta. Beh, l'armonica si predispone da buon bluesman. Tu non sei un bluesman, però il bluesman. No, bluesman no. No, però l'armonica ti appassiona, ecco, adesso quasi ci siamo. Mi fa compagnia. Ecco, dai. Ti fa compagnia, benissimo. Cammina da solo, specchiati nel muro, attendi il tuo treno in un'ombra cinese. La stazione sì, la troverai là, tra un disco dei Beatles e un poster sbiadito. Il sorriso di lei, invece chissà, ti starà già aspettando nella prossima città. Strada in salita, respiro pesante, se l'aria ti manca, cerca la più distante, la valigia vuota, ma la riempirai, e al tuo ritorno assieme a lei. Hey. Lungo strade diverse, incrocia i binari, riscopri storie perse. Wow-ha, wow-ha, wow-ha. Vai ben oltre a ciò che ti interessa. Wow-ha. E scusi il prossimo film a che ora. Vagone vuoto, mito obliterato, ricerca il tuo mostro in un mulino a vento, il tuo cuore sicuro si riposerà tra una teca di vetro e l'aldilà. Il sorriso di lei invece chissà, immaginalo già nella prossima città. Terra imprevista, ferita riaperta, il sapore fresco di una nuova scoperta. E se mai mi ritroverai, e se mai ti ritroverò, e se mai, e se mai, e se mai, e se mai, lungo strade diverse, incrocia i binari, riscopri storie perse. Wow-ha, wow-ha, wow-ha. Vai ben oltre a ciò che ti interessa. Wow-ha. E scusi il prossimo film a che ora passa. Wow-ha. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, abbiamo sentito questo pezzo molto bello, con l'armonica ha un certo senso, un certo carattere americano, anche se però è un pezzo assolutamente italiano, un pezzo di Pierre, del disco precedente, del disco in due, a duo praticamente, fatto con due persone. Sì, dal vivo lì eravamo in duo ed è stato composto e registrato in due, però poi chiaramente in studio sono stati inseriti strumenti, certo, vari, per cui da disco non sembra fatto questo da, è più, da un duo. Cioè, questo è cantautorale, però questo pezzo qua è molto molto alla Dylan, tra virgolette, sì, alla grande, cioè sempre tra virgolette, però l'armonica ha un certo senso molto a stelle e strisce, cosa dici? Sì, se, effettivamente sì, viene associata di solito ai viaggi, alle grandi autostrade. Infatti anche ad esempio questo disco comunque è lungo strade diverse, magari può dare questo senso di viaggio. E poi sì, comunque l'armonica chiaramente è uno strumento americano, Dylan, Bruce Springsteen e poi tantissimi altri che adesso magari non ricordo. In Italia ricordo solamente, come si chiama, aspetta, Bennato. Edoardo Bennato, sì. Vabbè, chiaramente, e vabbè, poi mi verrà in mente il nome di un armonicista incredibile. Travis, Fabio Travis. Ah, Fabio, beh, quello è un musicista classico, tra virgolette, quindi fa blues però ortodosso al 100%. C'è qualcuno, no, ti ha dato un biglietto, non c'è niente. Sì, dopo, mi ha scritto, dopo accordati la chitarra, mi ha disegnato una mano che fa perfetto, perché era scordato, no, non era scordato, no, andava accordata in una certa maniera. Sono un po' un perfezionista. Mi pare giusto che tu sia un perfezionista. Ci vuole. Ci vuole il perfezionista. Chi è il perfezionista? Lui praticamente nella band. Sì. Adesso sì, prima ero io, però lui è ancora più perfezionista di me, quindi anche Davide. L'unico, il meno perfezionista è lui, è Pier. Il nostro Pier, sì. E come mai il meno perfezionista praticamente? Si fida di voi praticamente? Sì, beh, spero proprio di sì. E poi comunque a me piace pensare che lui interpreta le sue canzoni così, non vuole essere dentro gli schemi. No, ride, però io non... Cioè, cioè libertà totale, sì, quando assoluta. Mi si è presentato il progetto ancora all'inizio, io appunto ho pensato questa cosa. In verità non è vero, perché ho dovuto pagarlo per venire a suonare. No, sto scherzando, infatti ringrazio tutti e tre per aver accettato di buon grado di accompagnarmi in questa avventura. Parliamo un momento delle date che avete fatto, poi ce ne sarà una ultima e poi ci sarà l'interruzione per riprendere nel 2012. Sì, sì. Avete fatto delle date dove recentemente? Beh, recentemente allora abbiamo suonato sabato a San Vito di Altivole, poi vabbè, partendo dall'inizio abbiamo aperto appunto a Vallà, abbiamo passato tutte comunque zone qui vicino, a parte vabbè Schio, siamo andati in due, vabbè, e adesso però vabbè venerdì questo chiudiamo, giochiamo in casa, infatti suoniamo a Cittadella per chiudere il 2011 e poi... Tutti e quattro a Cittadella. Chiaramente sì. Formazione al completo, esattamente. Formazione al gran completo venerdì sera. C'è una grande festa. Sì, sì, dai. E l'antivigilia, venerdì di questa settimana. Sì, sì, venerdì dopo domani. Dopo domani, benissimo. E, sì, questo abbiamo parlato delle date. E è difficile suonare dal vivo cose vostre? A Padova, a Cittadella, nei nostri giri, nel nostro Veneto? Diciamo di sì, perché comunque chiaramente i locali magari interessa una proposta in cui la gente che va a ascoltare musica possa anche conoscere le canzoni, perché magari è più facile per un locale dire di sì a una cover band, perché pensano, beh, ma la gente che viene qua appunto conosce le canzoni, sta qui più volentieri, mentre magari se un gruppo fa roba propria è più difficile, perché magari può piacere, cioè anche il locale non sa precisamente forse a cosa va incontro. Secondo me, comunque, parlando da musicista che fa roba propria, secondo me magari i locali dovrebbero cercare di dare più spazio, anche perché comunque almeno anche dalle nostre parti ci sono tantissimi gruppi validi e che fanno musica propria fatta bene, con belle canzoni. E non solamente le cover o tribute band. No, poi chiaramente anche magari anche la gente che fa cover o tribute band, io non sto parlando del discorso come impatto sonoro, come viene suonata la cosa. Certamente credo che chi fa roba propria ha un qualcosa da dire, che magari va aiutato ad esprimersi, a dare... È difficile quindi suonare mentre uno sta mangiando un panino, bevendo una Coca-Cola? No, non è difficile, però vabbè, c'è... Ma sempre... quando fate cose vostre praticamente, cioè non è... c'è poca considerazione, non dico poca considerazione, però d'altronde quello che è nel locale mangia un panino, beve una Coca-Cola. Sì, però anche nel locale dove c'è qualcuno che mangia un panino e beve la birra, comunque... anche in queste piccole realtà, piccole esperienze, noi siamo riusciti ad avere le nostre soddisfazioni. Comunque credo che al giorno d'oggi uno che fa musica propria va alla ricerca delle piccole soddisfazioni. Sono d'accordo con te. Quotidiane. E poi c'è una cosa che bisogna dire, che bisogna suonare sempre in ogni caso. Senza dubbio. Al di là di tutte le proposte, bisogna sempre cercare di dare il proprio contributo. Qualsiasi parte che ci siano, Coca-Cola, panini, non importa. Limite non importa, bisogna suonare sempre. Sì, e per fortuna, ad esempio, anche in questi ultimi concerti che abbiamo girato, abbiamo trovato luoghi in cui veramente si riesce ad apprezzare la musica la musica propria. Abbiamo trovato veramente dei posti in cui danno molto spazio e visibilità alle persone che tentano di fare qualcosa. E questa è una cosa molto positiva, sì, infatti, sottolinearlo. Davvero. 23:20, sentiamo un altro pezzo. Da che disco? Dal disco vecchio, sì. Disco vecchio, e sì, la traccia numero 2 che si chiama Miss Brano. Perfetto. Non ho mai pensato di fuggire, neanche quando ero stanco di te. Ero stanco di me, ero stanco di te, di noi. Non ho mai pensato di tacere, neanche quando ero senza parole per te, parole per me, mai pensato di morire neanche quando ho strappato. Lo so, tradisco però il tuo credo, mia divinità. Non ho mai pensato di abdicare neanche quando la guerra, lo so, la crisi però nel mio regno pace più non c'è. Ma Radio Rock Wave, l'onda del rock. Un pezzo, Pier, quasi urlato in alcuni momenti. Sì, questo sì, qua. Sì. Misbrano, infatti. Appunto, il titolo Misbrano già è significativo, indicativo. Cioè, forte, un pezzo forte, forte. Cantato con una certa irruenza, possiamo dire. Sì, sì, dai. Possiamo, perché quel momento, era quel periodo, era così. Sì, anche il primo disco magari è più vario, perché c'è appunto la canzone che abbiamo appena fatto dal vivo, che comunque magari è più, sì, se vogliamo dire, cantautorale. Tra virgolette. Questa che è più aggressiva, poi il pezzo che andremo ad ascoltare dopo, che è un po' questo ritmo latino. E poi c'è un'altra canzone che eseguiremo verso la fine, che si chiama Stabilità, che lui la chiama sempre il punk del cantabarista. Ah, perfetto. E quindi sì, è più magari più semplice e più punkeggiante, diciamo. Ma tu che hai citato Rino Gaetano, che influenza ti ha dato, se ti ha dato, che input ti ha dato, se ti ha dato, Rino? No, Rino Gaetano, diciamo che questo progetto è partito dopo essermi innamorato di Rino Gaetano, di aver consumato i dischi. Quali? Tutti quanti? Tutti quanti, li ho presi tutti e in li ho ascoltati solo. Tutti. Sì, ho trovato un fantastico cofanetto con tutta la discografia, sì. E l'ho preso. Quindi al volo. Hai cercato di esplorare il suo mondo. Diciamo che Rino Gaetano, più che magari a livello musicale, anche se comunque anche lui mi dà l'idea di essere una persona che ha sperimentato un po'. Era avanti rispetto all'epoca, e più che altro mi piaceva forse lo stile di Rino Gaetano. Secondo me era una persona semplice, che comunque non si è mai montato la testa e che diceva quello che doveva dire. Ah sì, sì, lo diceva in faccia qualche volta anche. E forse aveva qualche problema anche per quello in alcuni sì. momenti della sua carriera. E più che altro diciamo che mi piace tuttora l'immagine di Rino Gaetano, un po' spensierato. Fustigatore di costumi in alcuni momenti, non andava per sottile. E infatti anche appunto il termine cantabarista l'ho scoperto dopo aver letto la biografia di Rino Gaetano, che gli era stato appioppato, diciamo, questo nomignolo, quasi in senso di dispregiativo, per dire che era uno che scriveva canzoni da bar, quasi di poco conto. E io l'ho preso non per paragonarmi a lui, certamente, ma per comunque per non so, per dire magari riuscire a scrivere qualcosa come lui, e comunque magari per riuscire a mantenere questo spirito anche un po' semplice delle cose. È bello che il primo disco, non so se mi sbaglio, ma mi pare di sì, però è stato fu prodotto da Tonello Venditti, il primo di Rino Gaetano. Ingresso libero. Esattamente, è stato prodotto da Venditti, strano ma vero, era così. Beh, si parla. Era tutti al Folk Studio. Esatto, partono tutti dal Folk Studio, Venditti e De Gregori, e poi tutti gli altri. Folk Studio era un locale, è un locale. Mi diceva l'ultimo, uno degli ultimi, cioè che ha curato il Folk Studio, che è venuto a suonare da noi recentemente, che nel Folk Studio c'era una regola ferrea, chi doveva suonare suonava esclusivamente pezzi propri. E non esistevano le cover. Oh, pezzi propri. Voglio basta. Andare a suonare al Folk Studio. La regola era. Mi pare che sia giusto. Assolutamente. Deve essere così. Pezzi assolutamente propri. Che pezzo suoniamo adesso? Suoniamo la cover di. Ah, volete far sentire un pezzo da disco? Ah, no, facciamo. Ma facciamo la cover di. Facciamo di, la cover di Donovan. Un grande mito. Parliamo dopo allora di Donovan. Prima sentiamo A Regard di Me nella versione di. No, Mellow Yellow. Pardon, Mellow Yellow, la versione di One Pier. Guardando il volto disfatto, reagisco senza un perché. Il fumo passivo mi stuzzica le vene di respiro, più tempo non è col tango dei miei nervi, il tango dei miei nervi, il tango dei miei nervi. La falce ha rotto la calma, la calce la consumerà. La notte che arriva non bussa alle porte, ma è pronta e balla di già. Col tango dei miei nervi, il tango dei miei nervi, il tango dei miei nervi. L'ansia che percuote le ossa, la morte più paura non fa. La clessidra lenta mi guarda più attenta, batte il tempo che va. Col tango dei miei nervi, il tango dei miei nervi, il tango dei miei nervi. Moriremo di una morte nervosa, e c'è chi ci aspetta già. Lenta ci mangia, tiranna e golosa, l'impazienza sua maestà. Che col tango dei miei nervi, il tango dei miei nervi, il tango dei miei nervi. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Eh sì, Donoviano, i Donoviani non sono stati molto contenti. Ho citato A Regard di Me, che è il disco successivo per Mellow Yellow. Lo sapevate che Mellow Yellow, la versione italiana, è stata fatta da Caterina Caselli? No. Ecco, bello, l'ha fatta anche lei. È un po' particolare Mellow Yellow, parla di certe cose, in quell'ambiente, in quei momenti, Donova vagava su certi orizzonti. Siamo a perdere, però il pezzo è molto bello. E io sono soddisfatto, forse è un disco di tuo papà, Mellow Yellow, l'hai sentito? No, beh, diciamo che me l'ha citata più di qualche volta mio papà, però poi quando ho provato a mettere su questo progetto, comunque richiama il fatto di provare ad ascoltare anche i cantautori, anche modello Dylan, modello Donovan, perché anche lui comunque faceva la figura di questo menestrello. Menestrello, sì, lui è scozzese praticamente. E quindi ho... Philip Leitch si chiama. Un nome si chiama Philip Leitch, lui è scozzese ed è stato sai, spesso capita in Inghilterra che è arrivato un nuovo Dylan e era giudicato, era sanzionato come il nuovo Dylan. È suonato parecchie volte negli Stati Uniti, poi ha conosciuto Dylan, ha conosciuto i Beatles, chiaramente molto, molto amico di George Harrison per certi versi, lasciamo perdere per quali versi. Cioè, era un mondo particolare, ma è un grande Donovan. E quindi ho preso questa raccolta con tutti i successi di Donovan e Mellow Yellow. Vabbè, sarà un classico, però è un grande classico. Mi è piaciuta molto e quindi io ho provato a riscrivere il testo, che chiaramente non ha assolutamente nessuna attinenza con quello originale di Donovan, però è il ritmo che ti piaceva. Sì, mi piaceva come a livello musicale, semplice, mi piaceva poi questo ritornello, certo, maestoso, mi dava quasi l'idea di un concertino in balera così, e ho deciso di provare a rifarla, appunto cambiando il testo. Mi sono divertito a riscrivere qualcosa di mio. E buon Donovan ha suonato con Jeff Beck Group, praticamente aveva Jeff Beck Group che lo seguiva spesso e volentieri in qualche disco. Poi Catch the Wind, Color, Universal Soldier, te le ricordi, Soldato Universale, la colonna sonora di quel famoso film antimilitarista. È un pezzo di Beth Samari che Donovan ha ripreso. È stato ripreso anche in italiano da un altro cantautore. Donovan è stato ripreso spesso e volentieri anche da altri cantautori italiani, da Gian Pieretti, per esempio. Ah, ok. Atlantis, celeste di Gian Pieretti era Atlantis di Donovan. Ma Donovan è un grande mito per il sottoscritto, per una della nostra generazione. Quindi, okay. Però Donovan è grande. E io sono molto contento che tu abbia citato Donovan. Sono contento. Benissimo, sono le 23:33, adesso sentiamo un pezzo da disco. Sì, è la traccia numero 3 del disco precedente, che si chiama La Stoffa del Campione. Perfetto. Ma tu vada mai. Resti convinta e sempre vuoi. Vuoi farmi cucire un vestito con la stoffa del campione? Vuoi farmi cucire un vestito con la stoffa del campione? Per farmi sentire a mio agio con me e con le altre persone. Che mi faccia acquistare lo smalto che in questa vita accanto a me. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Stiamo conversando con One Man Pierre per presentare Storie di vite in affitto. Però stasera questo pezzo non abbiamo parlato di storie di vite in affitto, abbiamo parlato di un pezzo molto divertente, molto caraibico, vero Pier? Sì, questo qua infatti ha questo ritmo un po' latineggiante, che piace molto alla gente nei concerti. Sì, di solito chiudiamo sempre i concerti con mani alzate tutti quanti che si muovono. Sì. Fanno sì un po' di cori vari, fanno dei gesti un po' strani. Però comunque, è divertente. Sì, sì, no, comunque ci divertiamo a suonare questo pezzo, come spero che i miei amici musicanti si divertano a suonare un po' tutte le canzoni che tu hai creato, sì, li hai creati a te, però dopo le hai sviluppate assieme agli altri. Credo. Sì, sì, una cosa che mi piace infatti questa, dai. E anche questo dimmi. Comunque era del disco precedente, quindi non in Storie di vita in affitto. Sì, però il disco precedente che ha dato l'input per poi sviluppare, come abbiamo già detto all'inizio, disco nuovo. Sì, sì, sì, senza da dubbio. Due in quattro, ma serve avere una band, c'è poco da fare. Magari la prossima volta saremo in 6-7. Tu hai sei venuto da esperienze con parecchia gente. Sì, beh, ad esempio nell'altro gruppo in cui suono siamo in 6. Vedi, è già positivo. Però suonare in 4 non è cioè il numero, non dico il numero perfetto, quasi, insomma, in una band il numero perfetto dicono sia 3. I power Creamer, trio Creamer erano in 3. Eh sì. I Creamer erano in 3. Però in 3 facevano per 10, probabilmente. Esatto, facevano per 10. Sai, ragazzi, quando c'erano dei mostri sacri c'è poco da fare, però musicalmente è molto piacevole questo il disco precedente e molto piacevole anche il nuovo disco, quello che è uscito da poco. A proposito, come si può trovare il disco? Il disco è interamente autoprodotto al 100%. E quindi o ai concerti oppure magari richiedendomelo su MySpace o Facebook. Il vostro sito c'è? Il sito no, ancora no. Però ci sono appunto le pagine Facebook, che è facebook.com/uomenpierre e myspace.com/uomenpierre. Che importanza ha avuto la internet per poter andare avanti, portare avanti un discorso anche di autoproduzione? Beh, autogestione. Di sicuro comunque in internet, se usato intelligentemente, può darti vari spunti per trovare magari posti o concerti da suonare, esattamente. E in questo devo dire che mi ha aiutato parecchio. E comunque serve sempre per far conoscere quello che fai, perché comunque che tramite tutti i social network, ad esempio ho conosciuto Emanuele Bocci, certo. Però comunque puoi far girare il tuo video, puoi far girare la canzone, penso che se siamo qui anche stasera è stato grazie anche quello, sì. Sicuramente grazie anche a quello e quindi anche il fatto di aver conosciuto Emanuele oppure di essere qua questa sera, penso che bisogna elogiare e ringraziare anche internet per farti passare questi bei momenti. Però bisogna andare cauti. Bisogna sicuramente andare cauti, però finché ci regala queste belle cose, ben venga, e sì, che ne siano veramente altre. Al limite può capitare che riuscire a mandare il vostro disco anche all'estero, può capitare anche questo. Speriamo, dai. Molte band sono venute qua, si sono fatte conoscere all'estero grazie a questo discorso di internet, cioè questo suono che va avanti, ora non ha barriere, questo è importante. Sicuramente questa è una cosa buona. cosa abbiamo in scaletta adesso? Che sono quasi le 23:40. Allora, adesso appunto eseguiamo il punk del cantavarista dal vivo. Si chiama Stabilità, e anche questo è nel nostro disco precedente. Appunto, il folle, il cantavarista ed altre creature. Ok. Sono un pendolo che batte dentro queste quattro mura. L'oscillazione porta a confusione e paura. Con un destro sul mio viso al tappeto finirò. Terremoto di ottavo grado dentro al petto sentirò. Ed il mare tra le onde una bottiglia aveva portato. Ma il messaggio che stava dentro un gabbiano mi ha rubato. Forse era cosa seria, o forse era bugia, o solamente cura per la mia follia, che non conosce stabilità, né con me, né con te, né con sé. Stabilità che ti conduce mano a mano sopra il ciglio di un burrone che ti dice sono stanca di te e delle tue bugie. E dentro la mia testa una massa ancora più informe mi ingrassa, mi attanaglia, mi consuma e mi confonde. Il respiro un po' affannato, senza ossigeno spegnerò. E questa mano fredda brucia dentro ad un falò. E se sono un po' impaurito, dentro una magia, lascio ancora le mie gambe al passo della mia follia, che non conosce stabilità, né con me, né con te, né con sé. Stabilità che ti conduce mano a mano sopra il ciglio di un burrone che ti dice sono stanca di te, delle tue bugie. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Voi cari ascoltatori non avete visto Enrico, era proprio davanti al microfono in perfetta posizione, non si muoveva minimamente, però suonava con gli shaker. È un professionista. È un professionista. Magari. No, chiaramente stasera non c'ha la batteria, però c'ha quei piccoli movimenti percussivi. Sì. Vedi. E a fare il batterista ho imparato da solo, anche purtroppo. Perché comunque sei un po' di scuola, non fa mai male. No, fa bene la scuola, sì. Decisamente. Però, Però sai, la passione, una lezione proprio così con un ragazzo che conosco, tanto per dirmi, guarda, le bacchette si tengono così, e questo si chiama così, e quello così, e via. Vai. È difficile però, suonare la batteria. Sì, non sì. È semplice. Non è facile. Cioè, sembra molto semplice, sembra semplice. Ma lo chiedono spesso, non sembra così facile. Io dico sempre, siediti, prova. Appunto. E poi... Ma nessuno strumento è facile da suonare. No, bisogna suonarlo. Bisogna andare a scuola. Esatto, e poi tante ore di allenamento. E abbiamo Charlie che è diplomato. Esatto. Sei diplomato te, Charlie? Sì. Bene, quindi quante ore di studio per uno strumento? Tante. Decisamente tante. Sì, a settimana. E diceva, a proposito, Pier, tu citavi a microfono spento Arturo Stalteri. Abbiamo parlato di Arturo Stalteri, musicista straordinario. Lui fa 8 ore di allenamento al piano quando si deve preparare un concerto. 8 ore, quindi è una cosa incredibile. Cioè, bisogna continuare a dialogare con lo strumento, c'è poco da fare, cosa dici? Cioè? Sì, decisamente sì. Dopo anche tanto dipende non solo dallo studio che fai in casa, ma da suonare in giro, certo. Perché è una dimensione completamente diversa. E da vivere, cioè, l'importante tanto è vivere la musica in più modi possibile, anche differenti magari da quelli che sono i tuoi gusti personali. E infatti anch'io, che sarei prettamente metallare, mm-hmm, insomma, e amante di generi un po' più forti in generale, quando Pierpaolo mi ha proposto di suonare con lui, ho accettato di buon grado, perché vorrei allargare gli orizzonti. Sì, è sempre una bella esperienza, sempre, vabbè, al di là dell'amicizia che ci lega un po'. Io e Charlie abitiamo tipo a 10 metri di distanza, per cui comunque ci conosciamo da tanti anni. Ma quanto dovete preparare un concerto? Quante ore di preparazione? Dovete suonare, non so, io, per esempio, quando suonerete venerdì prossimo per questa grande chiusura dell'anno, quanto vi preparate? Beh, ormai diciamo le canzoni del primo disco ormai le conosciamo, però comunque noi di media almeno una volta alla settimana. Quante ore dentro? Due o tre orette piene, su una sera le facciamo, poi chiaramente per tanti impegni lavorativi, certo, di lavoro eccetera, non si riesce a trovarsi di più, però comunque almeno una volta alla settimana si trova. E questa è una cosa molto positiva. 23:49 quasi, abbiamo in scaletta qualche pezzo da disco adesso? Beh, no, sono finiti. Allora credo. Suoniamo ancora? Sì, dai, suoniamo. Qualcosa? Suoniamo Estate, Tranquilla Estate, che è l'ultima traccia del disco vecchio. Perfetto, ok. Benissimo, 23:49 esatto, in questo momento. Sono tutti suoni dal vivo, ci stiamo preparando, cari ascoltatori. Pausa pranzo estiva, vicino alla locomotiva accesa che tra poco partirà. Il sole è ancora alto, è luna, è pomeriggio, e il tabacco l'ho finito, non lo compro più. E lo sai, anche i miei vizi sono partiti. Per mari e per monti mi hanno detto, e le ansie invece le ho lasciate ad abbronzarsi un poco su niente. Ad abbronzarsi un poco su niente. Anche un poco il volume della radio, che passa una diretta dallo stadio. Tra urli, cori e insulti riconosco i miei sospetti, seduti in prima fila senza biglietti. Eh sì, anche loro sono partiti per fare tutto quello che gli pare. Stasera assieme alle mie paure andranno fuori a cenare, o forse in riva al mare a passeggiare. Oh, estate tranquilla, estate. Oh, estate tranquilla, estate. Tranquilli senza più niente a cui pensare, senza aver niente da dire. A volte è molto meglio non aver cose da dire che averne tante ma non riuscirle a raccontare. A volte è molto meglio aver zero racconti che mille favole ma nessuno che le ascolti. Oh, estate tranquilla, estate. Oh, estate tranquilla. senza più niente a cui pensare, senza aver niente da dire. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eccoci qua. Io ho notato una cosa, gli ascoltatori chiaramente non l'hanno visto. Enrico dava il tempo. 1, 2, 3, via. 1, 2, 3. Non avevi il rullante, non avevi i piatti, non avevi le bacchette, però avevi lo shaker. Ma l'indole punk rock. Sempre. Anche se ripetiamo il discorso, lui era perfettamente davanti al microfono, non si muoveva in asse, non si muoveva assolutamente, però dava il ritmo. C'è poco da fare, Enrico. Bisogna così. È il mio mestiere, diciamo. Ma anche il bassista dà il ritmo di solito. Sì. Anche Davide dà il ritmo. Ritmo. Ma Davide ha carisma, Davide è l'uomo immagine. È l'uomo immagine, è l'uomo immagine della band, praticamente. Sì. È stato molto positivo, secondo me, questo viaggio, queste due ore assieme a voi. Abbiamo parlato del disco nuovo, abbiamo parlato del disco vecchio, abbiamo parlato di vostri progetti. Una cosa che non vi ho chiesto: quanta fatica c'è stato per fare incidere un disco, Pier e tutti quanti? È stata una fatica bella, un premio, è stato pubblicato l'album. È stata sicuramente una bella fatica e anche una fatica bella. Ecco. Quindi... Questo disco è da luglio che almeno io ci lavoro, cioè io e Enrico più che altro. E poi vabbè, anche Davide e Charlie è arrivato strada facendo, però comunque da luglio a settembre abbiamo lavorato parecchio intensamente. Sì, e insieme a Damiano, che è appunto il dove l'avete registrato? Questo nostro amico ha questo piccolo studio casalingo e l'abbiamo è stato registrato bene e l'abbiamo registrato lì, anche perché lui comunque studia da fonico, è una persona che comunque si impegna nel fare le cose e con lui si lavora sempre bene. Anche il primo l'abbiamo registrato lì e siete stati soddisfatti? Sì, senza dubbio, per le nostre possibilità e con il nostro impegno abbiamo cercato di fare il massimo. Allora, ricordiamo il titolo del disco nuovamente. Allora, Storie di vita in affitto. Si può trovare nei vostri concerti. Oppure se volete richiederlo, c'è cioè facebook.com/onemanpierre, myspace.com/onemanpierre. Chiarissimo. E poi ricordiamo che venerdì, fra qualche giorno, suoniamo a Cittadella. Il grande finale alle ore 21. Anche alle 22. Anche alle 22, fino a notte inoltrata. Sì, di solito nei locali si comincia a suonare dalle 10 alle 10, 10 e mezza. Bene, grazie. Onemanpierre, che terminano chiaramente con un altro pezzo live. Ve l'ho detto all'ultimo secondo, ma sì, è la tradizione di Rock Wave. Facciamo questo. Per votazione, tu cosa vuoi fare, Davide? Davide, che ha tutta la lista dei pezzi, esatto. Pronti. Allora, o si fa questa sera, o facciamo Salutami ancora in versione acustica. Come volete voi? Salutami ancora in versione super acustica. Che non so come riesca con gli shaker, però. Ma va bene, sicuramente. ci proviamo. Certamente. Dai. Grazie, grazie a te e grazie a voi di essere intervenuti a questo programma. Ci sentiremo in una prossima occasione, quando avrete qualche altro materiale da far sentire. Con molto piacere. Grazie a Michele Tosoni in regia. Domani ci sarà un Agostino Spolaore con una cantautrice che viene da Genova, Karen Ciaccia. Grazie e buonanotte a tutti. Orbite inusuali per i miei pensieri nuovi, orbite discordi, non so, faccia da cretino tra i tuoi discorsi e il vino, anima irrequieta che va nel più bell'inferno che c'è, nel più bell'inferno senza te. Parapapa, ma tu salutami ancora, salutami ancora, salutami ancora se vuoi, ma tu salutami ancora per l'ultima volta, salutami ancora se vuoi, che poi lo sai non potrò più ubriacare. Distrazioni fragili e cuore a calamita, ma ora è andato in Tibet a fare l'eremita nel più bell'inferno che c'è, nel più bell'inferno senza te. Parapapa, ma tu salutami ancora, salutami ancora, salutami ancora se vuoi, ma tu salutami ancora per l'ultima volta, salutami ancora se vuoi, che poi lo sai non potrò più ubriacare.